può fare? Voci da un mondo sostenibile di Laura Bettini. Una buona giornata a tutti voi ascoltatori di Radio 24, ben ritrovati in questo sabato mattina nel quale si può fare lo stesso, quello che vogliamo fare nonostante le distanze, nonostante gli impedimenti che ci sono, nonostante l'epidemia che ben conosciamo in questo momento imperversa per il nostro paese, e ci stiamo ingegnando un po' tutti a fare le cose nonostante quello che c'è intorno. Bene, qual è il vostro nonostante? Che cosa fate nonostante la situazione? Cosa fate lo stesso? Al numero verde 800 24 0024 potete confidarci i vostri lo stesso, oppure il 349 238 6666 per SMS e WhatsApp. E noi inizieremo questa puntata con un paradosso, possiamo dire, perché andremo a vedere come si può visitare una mostra fotografica senza visitarla davvero, cioè ascoltando le descrizioni delle opere che sono esposte, un po' come Gianni Rodari nel suo celeberrimo libro in cui parlava di fiabe al telefono. Il papà che telefonava ogni sera a casa e raccontava una fiaba al telefono. Ricordate sicuramente, anche perché in questo periodo si è parlato moltissimo di Gianni Rodari. Ebbene, sentiamo un po' come si sono organizzati per risolvere questa situazione, per fare le cose lo stesso, al Museo Fondazione Palazzo Magnani di Reggio Emilia. Il direttore è Davide Zanichelli ed è in collegamento con noi. Buongiorno. Buongiorno, buongiorno a tutti, grazie. Direttore, ci fa molto piacere che lei sia qui come primo testimonial del Si può fare lo stesso, no? Voi avevate in calendario questa esposizione, avete deciso di farla lo stesso e vi siete inventati anche questa bellissima cosa di raccontare al telefono. Ci dica un po', e poi dopo ci descrive magari un'opera, noi l'abbiamo anticipata ieri ai nostri ascoltatori, ma ci dica un po' come vi siete organizzati. Sì, allora, noi abbiamo aperto da 3 settimane, il 17 ottobre, questa mostra fotografica dedicata alla stage photography, che è la fotografia visionaria, che dalla fine degli anni 70 oggi ha definito un genere particolare di fotografia. Era partita benissimo, ovviamente, e ci siamo trovati, come tanti altri nostri colleghi, a dover interrompere ovviamente al pubblico l'accesso alla mostra, e quindi immediatamente, anche se eravamo già un po' preparati a questo evento. Beh sì, purtroppo era un po' nell'aria questa. Era nell'aria, quindi ci eravamo già un po' preparati ad affrontare appunto la chiusura, speriamo temporanea ovviamente. Questo significa continuare a tenere un filo, una comunicazione, un collegamento con il nostro pubblico, ovviamente attraverso gli strumenti digitali, ma ci piaceva anche non rinunciare al calore del contatto umano sostanzialmente, anche perché nelle visite guidate quello che fa la differenza effettivamente è anche la relazione con la guida e la possibilità di interloquire e interagire appunto con la guida. E certo, questo sicuramente sarebbe manche... cioè... è bello quando c'è e voi lo state riproponendo con questa possibilità di telefonare. Io voglio ricordare agli ascoltatori che possono andare sulla pagina Facebook del nostro programma Si può fare Radio 24, attenzione, Si può fare Radio 24 perché non è l'unico Si può fare che c'è in giro, e vedere la foto della quale tra pochissimo andiamo a parlare. Dunque, l'idea della telefonata era fin dall'inizio oppure è stata frutto di una discussione interna? Avevate altri strumenti possibili? No, è stata frutto di una discussione. Ovviamente gli altri strumenti possono essere quelli del tour virtuale, quelli del video. Noi abbiamo fatto recentemente una serie di iniziative anche legate ad esempio ai malati di Alzheimer, che sono organizzati già da diverso tempo per venire a visitare le nostre mostre, e durante il lockdown della primavera scorsa avevamo iniziato proprio a lavorare con loro anche attraverso collegamenti, videocollegamenti e collegamenti telefonici, e quindi sulla scorta del successo che comunque ha avuto anche da parte del pubblico abbiamo deciso di riproporlo in questo modo. E anche, come dire, la celebrazione di Gianni Rodari, il centenario di Rodari di quest'anno, ha anche un po' agevolato, nel senso che le favole al telefono sono state una grande fonte di ispirazione da questo punto di vista. Allora, andiamo all'opera, che dice il direttore, proviamo un po' come se io fossi, no, un visitatore che ha bisogno di una descrizione di quest'opera. Io come faccio? La scelgo intanto su un catalogo che è su internet e vi telefono. Esatto. 0522, faccio finta di farlo, 44. Quattro, quanti quattro avete? Allora, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, sono 1, 2, 3, 4, 5 volte 4, quindi ripeto 0522, poi faccio 5 volte 4, 6, chi mi risponde? Risponde una delle nostre guide, dei ragazzi che accompagnano i visitatori in mostra e chiederà appunto qual è la foto scelta da chi ha telefonato. Ok, io le dico quella che abbiamo messo su Facebook, Revenge of the Goldfish di Sandy Skoglund. Poi dopo, spero di averlo detto bene, ma insomma le guide saranno addestrate a capire qualunque pronuncia, immagino. Esatto. E lei, quindi a questo punto cosa succede? A questo punto inizia appunto questa conversazione in cui il nostro operatore entra un po' in relazione con chi ha telefonato e instaura questo dialogo, che è una specie di chiacchierato ovviamente, con anche la descrizione puntuale sia del contesto in cui è inserita l'opera, sia poi dell'opera stessa, perché ovviamente sono tutte opere, come dire, che suscitano molto l'elemento fantastico e quindi anche diversi interrogativi da parte di chi l'osserva. È previsto un tempo massimo, diciamo, di chiacchierata, di, ecco, conversazione? Ce lo siamo chiesti, perché poi dipende molto da chi c'è dall'altra parte del filo. Molte volte diventano anche, come dire, conversazioni sul mondo dell'arte o su, come dire, no, rivoli e derivazioni rispetto all'opera scelta. È chiaro che si cerca di tenere il tutto entro una decina di minuti. Ah, ok, quindi anche se telefona a un critico a un certo punto deve appendere. A un certo punto sì, perché la linea per il momento è una, poi vediamo se sarà un successo, vedremo anche di aggiungerne. Ma tipo è già attivo oppure no? Sarà attivo da lunedì? Dall'11. Esatto. Da mercoledì. Tutti mercoledì dalle 17 alle 19. Ok, quindi 17-19 è riuscita a prendere un certo numero di telefonate, però mi incuriosiva una cosa, ovviamente le guide ci sono, ma il biglietto non si paga, come funziona? Per questo servizio? No, assolutamente no, assolutamente no, questo è un servizio gratuito, nel senso che si paga la telefonata come qualsiasi altra telefonata, però diciamo che chi ha comunque comprato il biglietto lo conservi, perché noi contiamo comunque di riaprirla, anzi di prorogarla nel caso in cui dovesse essere chiusa per lungo tempo. Va bene, quindi voi pensate che comunque così tenete vivo il rapporto con il polo museale, con i vostri visitatori. È uno dei canali con cui cerchiamo di tenere vivo il legame. Ma senta, prima mi ha detto che avete fatto anche in primavera scorsa i tour virtuali. Che esito hanno dato? Io avevo molti dubbi all'epoca del fatto che tante persone avrebbero avuto questo desiderio di vedere musei da casa. No, noi tour virtuali in senso stretto non ne abbiamo fatti. Nella primavera scorsa invece avevamo iniziato queste sperimentazioni, dicevo prima, con alcune parti del nostro pubblico, in particolare questo progetto che avevamo fatto con i malati di Alzheimer, che erano abituati a venire in mostra, e il lockdown, impedendogli proprio lo spostamento, ci ha consentito di attivare il canale telefonico. Quindi noi fin da subito abbiamo deciso di non procedere verso la soluzione del virtual tour. Ok, quindi sono cose che si sperimentano poi, ovviamente, certo, perché bisogna vedere un po' che reazione hanno. Poi immagino che dipenda anche da che cosa c'è in esposizione. Sì. Un conto è vedere, che so io, gli Uffizi, e un conto è vedere appunto la vostra esposizione. Sono due cose completamente diverse, con rese diverse. Lei ha qualche predilezione in questo periodo? Si è dilettata a vedere qualcosa, magari? Qualche virtual tour particolare? Beh, sì, appunto. Secondo lei dove ha reso meglio, diciamo, il virtual tour? Ad esempio, lei ha citato quello degli Uffizi, sicuramente quello degli Uffizi, anche ad esempio da telefonino, da smartphone è uno di quelli che ha le rese migliori, questo assolutamente. Chiaro che è anche molto diverso un virtual tour pensato per una collezione permanente, quale possono essere appunto quelle dei grandi musei, e invece mostre temporanee. Ma la vostra, ad esempio, ecco, mostra temporanea, la vostra, stavo pensando, potete distribuirla? Ci sono problemi di, come si chiamano, diritti su queste fotografie, per esempio, nel metterle su un virtual tour, su altri canali rispetto, certo, a quelli previsti dalla esibizione? Sì, dalla... ogni, diciamo che ogni immagine ha un suo diritto e quindi prima della distribuzione, sia che sia su una pagina statica come quella che è, ci consente di scegliere in questo caso, sia in un virtual tour, sia in un video, ma così come in un catalogo, ogni immagine deve avere il diritto di utilizzo per quello scopo, per quel fine. Quindi quella che voi mettete sul sito, adesso ritorno alla fotografia di cui abbiamo parlato, sì, prima, no? Revenge of the Goldfish, quella lì noi la vediamo sul vostro sito, tutti i diritti sono, certo, ovviamente già sistemati, era già liberata, assolutamente. E io vedo questo bel mare blu con dei pesci goldfish, per l'appunto, questi pesci che sembrano nuotare, chiaramente, sì, come diceva prima lei, è tutto messo in scena apposta per questa fotografia, che dico agli ascoltatori, tra l'altro è quella della copertina di Venuto al Mondo di Margaret Mazzantini, quindi l'hanno vista di sicuro. Sì. È molto particolare come cosa, come mai si fanno questo tipo di fotografie? Ecco, questa è proprio una mostra che si chiama appunto True Fictions, perché indaga i temi della verità, della finzione, dell'inganno per certi versi, cioè dal momento in cui la fotografia da specchio del mondo in realtà diventa strumento per generare anche sogni, in alcuni casi anche incubi o inganni. Questa è una caratteristica che ha assunto la fotografia a partire dalla fine degli anni 70 e ha avuto una grandissima accelerazione poi con l'avvento del software di fotoritocco e 3D, ovviamente. Cioè, però leggevo, sì, che la stessa Skoglund diceva, sì, che lei non usa il, esatto, il ritocco al computer o fare comunque il photoshoppare, non so come dire, esatto, perché comunque quello è, diciamo, già per chi guarda è già percepito come falso. Lei preferisce fare proprio la messa in scena vera e propria. Esatto, ognuno degli oltre 30 autori esposti in mostra ha poi il suo concetto, diciamo così, di interpretazione della stage photography, quindi abbiamo nel caso della Skoglund la costruzione di opere d'arte veramente molto complesse, perché non sono costruzioni post prodotte, ma sono proprio set costruiti, tra l'altro con un tempo anche di preparazione che può arrivare fino all'anno, cioè la Skoglund ci mette anche un anno a costruire, a concepire, a costruire e a scolpire ogni singolo oggetto che compone poi il set finale. Quindi sono luoghi che vengono allestiti, dipinti, ogni oggetto scolpito in resina o in terracotta, appeso, e come ultimo elemento l'uomo viene collocato all'interno di questi set e finalmente si può scattare. Quindi è un mix di tecniche che vanno appunto dalla pittura, alla scultura, all'allestimento scenico e finalmente alla fotografia, che determinano alla fine lo scatto finale. Si può fare lo stesso, insomma, in tutti i modi. Grazie direttore, davvero, direttore del Museo Fondazione Palazzo Magnani, Reggio Emilia, Davide Zanichelli. E allora vi invitiamo tutti ad andare a consultare il sito di Palazzo Magnani e scegliere la vostra opera, il vostro catalogo. Alla prossima! Si può fare! Si può fare! Si può fare! Darling, you got to let me know. Should I stay or should I go? If you say that you are mine, I'll be here till the end of time. So you got to let me know, should I stay or should I go? Scusate, io la volevo sentire almeno fino qua, almeno fino qua. Should I stay or should I go? Abbiamo parlato di fotografia in questa prima parte, abbiamo parlato del si può fare lo stesso nonostante qualche difficoltà, qualche distanza fisica, distanza tra città, tra persone. Adesso parliamo di distanza in un altro ambito. Abbiamo detto prima dei musei, adesso andiamo a parlare di bambini, di scuole e di attività che venivano svolte fino all'anno scorso in una maniera completamente diversa, come sappiamo, anche quelle diciamo complementari alle attività scolastiche. In particolare andiamo a parlare di cinema. Con noi c'è Paola Cristoferi, buongiorno. Buongiorno. Responsabile del progetto Tu sei scuola del CIAI, Centro Italiano Aiuti all'Infanzia. Dite CIAI o CIAI o CI, come lo dite abitualmente? Diciamo CIAI. CIAI, va bene, sembra sì. Un po' ce l'hai, ricordano anche questo i giochi dei ragazzi. Sì, ci piace giocare. Allora, voi di solito facevate cinema con i bambini, e vi siete sì. Ripensati quest'anno, ovviamente, sì. Lo fate lo stesso in una maniera diversa, perché dai cineracconti in stile fantasy passate al documentario interattivo che parte dai diari, quindi la cosa più tradizionale possibile. Ci raccontate un po' il sì. Percorso del 2020, diciamo, stagione 2020-21. Esatto, allora come dicevi, noi fino all'anno scorso abbiamo iniziato all'interno del progetto Tutte Scuola diverse attività, tra cui quella proprio di costruire insieme a quasi 300 ragazzi ogni anno di prima delle classi prime delle scuole medie di 6 città diverse d'Italia, la creazione appunto di un cineracconto in stile fantasy ispirato dalle storie delle loro città. Quindi i ragazzi proprio fisicamente hanno scritto e hanno interpretato, hanno creato i costumi, hanno creato le scenografie, hanno proprio hanno potuto fare l'esperienza a scuola di vedere la propria aula magna piuttosto che la palestra come una sala di produzione cinematografica, quindi in estrema vicinanza evidentemente, no? Anche fisica. Chiaramente con il lockdown, l'emergenza pandemica, ci siamo trovati a dover ripensare completamente la nostra attività. Mm-hmm. E la riflessione che abbiamo fatto è stata quella di proporre ai ragazzi di uscire, diciamo, dalla dimensione fantasy, ma di poter proprio raccontare, quindi prendere voce e raccontare il proprio tempo. Quello che abbiamo immaginato è quindi creare un documentario interattivo che racconta le voci di altrettanti 300 ragazzi delle classi prime sul tema del tempo. Tempo in quattro episodi, no? Quindi diciamo l'idea del tempo è nata un po' dalle riflessioni che abbiamo condiviso anche con i docenti, con i ragazzi quest'estate, insomma alla fine di quest'anno scolastico, credendo forse di poter iniziare un terzo anno di progetto semi-normale. Semi-normale, esatto, non ancora in emergenza, ecco, parlando di post-emergenza. E quello che era emerso era proprio di una travolgimento del senso del tempo, no? Nella percezione, questo tempo di attesa, il tempo della didattica a distanza, e quindi l'idea è stata proprio di permettere ai ragazzi di raccontarlo inizialmente in modo individuale attraverso un diario, che non è proprio uguale al diario che hanno a scuola, perché è un diario che abbiamo creato che avete creato voi. E come è fatto? Allora, è proprio un cinediario o è un diario da scrivere con la penna? Allora, è un diario multimediale, nel senso che fisicamente è proprio un diario cartaceo, è un quaderno arricchito dalle opere di un'illustratrice che riesce proprio a stimolare, a sollecitare i ragazzi a raccontare. Ce ne sono 4 di diari, quindi uno per ogni dimensione di tempo, quindi c'è il diario del sogno, il diario del passato, il diario del tempo presente e il diario del futuro. E i ragazzi quindi nella prima fase di questo lavoro avranno questo proprio strumento che li guiderà, li accompagnerà a creare un racconto in base appunto al proprio tempo. Dopodiché questi Però questo racconto, come dicevi tu, effettivamente avviene sia in forma scritta, quindi attraverso proprio le parole, ma può avvenire anche attraverso altri linguaggi, quindi le foto, i video, i suoni, i vocali, i ricordi, quindi diciamo c'è una totale apertura, perché all'interno di questo diario, di questo strumento, possono essere raccolti tutti i contenuti, tutti gli elaborati dei ragazzi. Tutto questo sotto la guida di Cinemobil Foundation, che è il nostro partner di progetto, mm-hmm. la direzione artistica di Davide Barletti e Gabriele Gianni, verrà poi convogliato e diventerà insieme ai ragazzi un racconto collettivo, che verrà messo in scena e interpretato dagli stessi ragazzi. Quindi immaginiamoci gli studenti in classe. Quindi loro rivedranno le loro esperienze magari interpretate da qualcun altro. Esatto, non solo rivedranno le proprie della propria città, ma potranno proprio, tutti noi potremo viaggiare in questo documentario interattivo all'interno del tempo di appunto 300 ragazzi di 6 città diverse, che quindi diventa anche un documento per psicologi, insegnanti, persone che seguono questi ragazzi in generale, ma anche ragazzi italiani, ecco. Assolutamente, sì, la nostra idea è proprio quella di riuscire anche proprio di accogliere questa sfida di dover pensare a un'attività a distanza, per poter però permettere ai ragazzi di osservare e raccontare il proprio tempo, questo momento di cambiamento epocale che evidentemente va elaborato, e la guida è quella di farlo attraverso appunto l'espressione artistica. Voi, avendo già un po' l'esperienza della primavera scorsa, che in qualche maniera è stata conclusa, no? Immagino il percorso che era iniziato nel 2019, io ho visto molti video sul sito, quelli di che periodo sono? Allora, intanto invito tutti ad andare a giocare su cinegame.eu. È molto divertente, sì sì, molto. È un bellissimo sito, complimenti. Grazie. Sì, credo che quello permetta di capire anche di cosa si parla, perché davvero è difficile immaginare che i ragazzi possano fare un'esperienza così, anche così professionale, mi viene da dire, così bella. All'interno di quel sito potete vedere i 6 cineracconti del primo anno di progetto, quindi dell'anno scolastico 2018-2019, e 2 dell'anno scorso, perché a un certo punto noi siamo stati evidentemente bloccati, e quello che stiamo facendo ora è cercare di recuperare il percorso fatto con le 4 scuole che non sono riuscite a concluderlo a distanza, e quindi lo faremo con e da quello potendo. Infatti lì hanno continuato, no? Volevo arrivare nell'ultimo minuto che abbiamo a disposizione. Già dall'anno scorso si vede qualche tipo di cambiamento rispetto alle esperienze che avevate precedentemente, visto che i bambini avevano già alle spalle qualche mese di difficoltà, e prima il semi lockdown e poi il lockdown. Com'è andata lì? Allora, ci stiamo lavorando ora. Sicuramente le difficoltà ci sono enormi, e sono, diciamo, sia organizzative rispetto proprio a una questione di dispositivi, connettività, sia del loro legato. Ci ha già dato un'indicazione sui dispositivi, che sono croce delizia di tutte le famiglie. Ci tengo a dire che noi, quando abbiamo appunto dovuto ripensare al progetto di fronte al lockdown, la prima cosa che abbiamo fatto è stata proprio cercare di reperire risorse dal nostro donatore, appunto, che con i bambini, aggiuntive proprio per contribuire anche noi nell'acquisto di dispositivi e connettività, altrimenti sarebbe stato impossibile pensare di continuare a distanza, sia per le attività, diciamo, ordinarie della didattica, sia per le attività del progetto. Allora, Paola Cristofori, noi la ringraziamo moltissimo per essere stata con Grazie noi in questo passaggio del nostro Si può fare lo stesso. Adesso abbiamo GR24, faccio i complimenti anche a chi ci scrive da Forlì, che porta avanti dei progetti, vedo, per ragazzi, per le scuole, il viaggio di Ulisse raggiunge le scuole di tutta Italia, così leggo. C'è chi ci dice che la ricetta per star bene è uscire, beh, lui la fa anche in posizione politica, io dico che comunque la passeggiata effettivamente ci consente di fare le cose lo stesso, di affrontarle con la mente un po' più limpida. Dopo GR24 torniamo insieme. Si può fare. Si può fare. fare. Si può fare lo stesso, si può fare lo stesso, e questo è il tema della nostra puntata. Ancora una buona giornata da Laura Bettini. Tutto procede secondo i piani. Leggo che la signora Francesca Carla dalla Monza Brianza cucina i suoi funghi. Vedo quello che ci scrive sempre il messaggino di andare a cagare. Quindi tutto procede come al solito ogni settimana. Ritroviamo gli stessi amici, ritroviamo tanti messaggi anche al 349-238-6666. Chi vuole condividere con noi la sua idea del si può fare lo stesso, cosa fa lo stesso, cosa fa nonostante, oppure ci vuole telefonare all'800 24 00 24. A noi farà molto piacere ascoltarvi, sentire le vostre voci. Adesso cambiamo un po' argomento, sia pur appunto parlando del si può fare lo stesso. Parliamo infatti di alberi e di verde, e noi ne parliamo tanto nelle nostre conversazioni, nelle nostre anche trasmissioni radiofoniche. Che ne abbiamo parlato recentemente a proposito di una serie di tagli di alberi che si vorrebbero fare in Italia, che sono fortemente osteggiati, ma tante volte sappiamo davvero poco degli alberi, sappiamo poco se, per esempio, non sappiamo se sono quelli che ci sono gli alberi migliori per la qualità dell'aria, oppure non sappiamo se sia meglio piantare l'una o l'altra specie. Ecco, il nostro soccorso può arrivare in questo. Il CREA, Alessandro Alivernini, è un ricercatore del CREA ed è responsabile del progetto AirTree. Buongiorno. Buongiorno Laura, buongiorno a tutti gli ascoltatori. Buongiorno Alessandro, un progetto con il quale appunto noi, facile, cioè si guarda su internet, no? Si mettono tutte le caratteristiche e già ci facciamo un'idea di quello che può andare bene nella nostra zona o di quello che sta succedendo nella nostra zona. Da lì poi si parte per costruire il futuro, direi. Può spiegarci un pochino Alessandro come funziona AirTree? Certamente. AirTree anzitutto è una somma di tante conoscenze scientifiche che abbiamo messo assieme nel corso degli anni. Se pensa, il progetto è partito 4 anni fa, ero al Colosseo e mi trovo col mio collega Silvano Fares e abbiamo iniziato a sviluppare assieme tutte queste idee e a metterle insieme, tutti questi articoli scientifici che ciascuno faceva un piccolo pezzetto di questo grande puzzle che è AirTree, che essenzialmente ci dà quello proprio, ci spiega come funziona la vegetazione, va a simulare quelli che sono proprio l'accrescimento degli alberi, come respirano le foglie e come ci aiutano a sottrarre gli inquinanti atmosferici. Questo appunto sono tutti che sono quelle cose che noi, esatto, sono complessi, però sono quelli che ci servono poi, perché esatto. Quando facciamo una piantumazione o quando si decide di sostituire una pianta con un'altra, beh, sono dati fondamentali, altrimenti che cosa facciamo? Esatto, sono proprio dei dati di base, ma appunto non è proprio così tanto semplice e immediato individuare quali sono gli alberi migliori da piantare in una data città, perché dipende dal clima, dalle condizioni del terreno, da tantissimi fattori che cambiano dopo di volta in volta, ed è proprio per questo che abbiamo sviluppato questo strumento, che è una semplice pagina web, è una pagina web dove uno va a delineare una semplice area e a dire che a quell'area magari corrispondono 100 piante di quercia, di leccio, e anche partendo da questo semplice dato, aggiungendone magari pochi altri dopo, è possibile svolgere queste simulazioni che ci dicono appunto quante polveri sottili vanno a rimuovere questo boschetto, appunto, che può essere già un bosco esistente, un parco verde urbano, può essere per Roma Villa Panfili, per esempio, oppure magari un nuovo parco che una città intende progettare, per cui le future proprio speranze che noi stiamo mettendo in questo verde, essenzialmente. E questo proprio ci può essere di aiuto, perché possiamo anche vedere come funziona rispetto a scenari climatici che non sono quelli attuali, magari con temperature maggiori, appunto, ipotizzando uno scenario tra 10 anni, tra 20 anni. Cioè, io potrei divertirmi a entrare nel sistema e dire che so io ho un suolo, perché mi ricordo di averlo letto, tipo più sabbioso, oppure ho un suolo così, e faccio uno scenario con che so io un grado in più, 2 gradi in più, 1,5 gradi in più, e ho risultati diversi? Esatto, questo è proprio l'obiettivo che vogliamo raggiungere con il progetto AgriDigit. Appunto, AirTree è questo sistema, questo software che abbiamo sviluppato nel corso degli anni e nell'ambito di molti progetti. Attualmente lavoriamo con AgriDigit, che è un progetto finanziato dal Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali. E questo è proprio il nostro obiettivo, fornire uno strumento sia per i cittadini, ma soprattutto per i gestori del verde urbano, per svolgere queste simulazioni, per capire essenzialmente in determinati scenari, in determinati ambienti, quali sono dopo le specie migliori e che cosa possono realizzare con i loro interventi, cioè quanto possono concretamente migliorare la qualità dell'aria. Questo però lo posso fare anch'io, come non amministratore di una città, ma io per esempio, non so, avessi, cosa che non ho, delle proprietà terriere, voglio mettere qualcosa, posso farlo, no? Vado certamente lì e metto tutti i parametri, indico il luogo, l'area geografica, eccetera, eccetera, e ottengo il risultato come un sindaco, uguale. Uguale, esattamente allo stesso modo. Parlo di gestori del verde urbano perché, diciamo, per loro l'interesse è professionale, ma chiaramente dopo per i cittadini c'è anche l'aspetto proprio conoscitivo, di sapere proprio il verde che li circonda, essenzialmente come migliora la loro qualità della vita. E tra l'altro sareste anche un ente terzo in certe diatribe tra cittadini e amministrazioni. Certo, certo. Te pensa proprio che in un progetto che diciamo intendiamo realizzare, diciamo, è stato presentato, ma aspettiamo chiaramente l'esito del bando, e vogliamo proprio arrivare vicini ai cittadini con questo progetto, cioè sviluppare un'applicazione dalla quale semplicemente uno può inserire anche pochi punti, magari gli alberi che ha davanti, e conoscere questi alberi quanto l'aiutano a migliorare la qualità dell'aria. Allora, adesso ti pongo una domanda che arriva da un ascoltatore che stamattina è veramente sul pezzo, perché non è la prima domanda che manda. Allora, come fanno ad essere sicuri che siano gli alberi a rimuovere gli inquinanti e non ad esempio il vento o altri fattori? Allora, io so che ne siete sicuri, ma come si fa? Come si fa? Allora, chiaramente, nel senso, dietro a questo software che abbiamo sviluppato ci sono delle basi scientifiche e un articolo scientifico sviluppato assieme a dei colleghi. E il confronto è dato da dei siti sperimentali in cui vediamo proprio, osserviamo gli scambi gassosi che ci sono tra atmosfera e bosco, grazie a delle torri che sono alte una trentina di metri e prendono le concentrazioni dei gas a vari livelli, e tramite, diciamo, delle equazioni molto difficili che neanche io conosco, quindi tantomeno so spiegare, si arriva a quelli che sono gli scambi effettivi tra il bosco, tra gli alberi e l'atmosfera. Okay. Dico effettivi, ma sono chiaro, stimati, chiaro con tecniche di precisione. Abbiamo un attimo per la viabilità, torniamo tra pochissimo. Alessandro resta in linea, Alessandro Livernini. Si può fare. Fare. Benvenuti in questa età dove tutto è lecito e la terra supplica pietà al nostro sguardo gelido. Bene che non mancava niente. Mi ricordo che sempre in collegamento con Alessandro Alivernini, ricercatore del CREA, responsabile di questo progetto di cui abbiamo parlato fino adesso. Abbiamo parlato di AirTree, che poi è un software che consente di compiere particolari e specifiche analisi sugli alberi che già sono presenti, sugli alberi che magari potremo piantare o potremmo, vorremmo piantare nelle nostre città, ma non solo. E ci ha raggiunto anche Federico Garcea, che è il co-founder di Tridom. Tridom, buongiorno. Ciao, buongiorno. Cioè, ti ho chiamato Tridom, non è bellissimo? Mi è scappata così. Va bene, Federico. Perché io ho in mente bene che cos'è Tridom, però ti chiedo di presentarlo rapidamente agli ascoltatori. Io mi ricordo di voi fin dagli albori. Quanti bene, anni fa? Grazie. Quanto siete partiti? Ormai sono 10 anni. No, non è vero. Sarà l'altro ieri che siete partiti. Beh, avremmo fatto un bel lavoro, perché ad oggi abbiamo piantato 1.400.000 alberi, quindi ne abbiamo fatto un po' di strada, diciamo. Però nello specifico Tridom è la prima piattaforma al mondo che permette a private ed aziende di piantare un albero online, quindi diciamo adottarlo, finanziando direttamente contadini nel mondo. Mm-hmm. Quindi ha un doppio valore, diciamo, sia quello del piantare l'albero con tutti i suoi benefici ecologici, sia quello di aiutare le popolazioni laddove vengono piantati gli alberi. Sì, esattamente. All'interno dei 25 progetti dove piantiamo alberi, in primo luogo portiamo avanti dei benefici ambientali. Ovviamente piantando alberi assorbiamo CO2 o risolviamo delle specifiche specifici problemi locali come la deforestazione, la desertificazione, l'inaridimento dei suoli, ma allo stesso tempo finanziamo delle cooperative di contadini o delle ONG nel mondo che sono proprietari delle terre, sono proprietari degli alberi e sono proprietari anche dei frutti, perché piantiamo quasi il 50% di alberi da frutto e ovviamente a partire dal terzo o quarto anno i contadini possono utilizzare i frutti per la loro sicurezza alimentare e anche rivendere nel mercato locale e quindi garantire loro reddito e creare anche del lavoro nel sud del mondo. Allora, devo chiedere da parte di un ascoltatore molto presente cosa ci guadagnate voi in tutto questo? Perché voi comunque lavorate, al di là del fatto che è bellissimo che qualcuno mi regali un albero, che io possa seguire questo albero, che questa cosa faccia bene al luogo dove viene piantato e alle persone che lì lavorano, su Tridom che riflesso ha? Sì, Tridom è come se fosse una piattaforma di un po' di certificazione e promozione, quindi è un ponte tra private aziende e cooperative di contadini e trattiene una fee per ogni albero venduto, quindi siamo un social business. Ovviamente il nostro obiettivo è piantare più alberi possibile, ma di questo ne abbiamo fatto un'azienda. Siamo una benefit corporation, che è tutto il nuovo movimento globale di aziende che sono attente alle persone, all'ambiente e alle comunità. Ok, benefit corporation si chiamano queste. B Corp, sì. Bene, ci torniamo poi dopo alla fine, tra l'altro, della puntata con qualcosa di simile, sia pure in altro campo, che è accaduto che sta accadendo in Russia. Alessandro Alivernini, la richiamo in causa, ti richiamo in causa. Questa idea di piantare molto lontano da noi, immagino che ti piaccia, ma sarebbe bello anche piantare qui. Qualcuno ci ricorda, ad esempio, la legge pugliese per piantare un albero per ogni nascituro. Come potremmo fare? Come la vedreste voi al CREA? Assolutamente sono delle iniziative veramente positive. Ti racconto la mia esperienza personale, perché sono stato coinvolto all'interno di un progetto europeo che si chiama VEGAP, dove proprio in città target, tra cui Bologna, Milano e Madrid essenzialmente, mirano proprio a capire come andare a svolgere questa operazione del genere nelle loro città. Quindi proprio a migliorare la vita dei cittadini, ed effettivamente sono tanti gli aspetti dopo da considerare, appunto le specie, come ci possono aiutare a migliorare la qualità dell'aria, ma soprattutto dove dopo andare a piantare questi alberi, perché abbiamo questa bellissima spinta, però appunto la questione principale è dove svolgere queste azioni, se in campi agricoli, sottraendo magari terreni agricoli all'economia, oppure rivedendo magari delle aree industriali, oppure ancora arricchendo parcheggi urbani. È veramente è un campo vastissimo e bellissimo da discutere, e sicuramente è proprio una bellissima attività. Complimenti. Allora, Alessandro Livernini, ci chiedono di scandire bene il nome. Il nome è CREA, C-R-E-A, che è il Consiglio per la Ricerca in Agricoltura e l'Analisi dell'Economia Agraria. Ci sono documenti che gli ascoltatori possano leggere? Sì, AIRE, devono scrivere AIRE. T-R-E-E e poi trovano il sito sul quale possono esercitare, diciamo, tutte le ricerche di cui abbiamo parlato, penso. Sicuramente, il sito è in sviluppo con il progetto AgriDigit, per cui sarà disponibile a tutti gli utenti, insomma, di qui a breve. Speriamo, insomma, entro un anno proprio di renderlo disponibile questo servizio. E invece per... attualmente sì, prego. C'è una pubblicazione scientifica che appunto già dettaglia tutta la metodologia che abbiamo utilizzato, ma da un punto di vista proprio di utenti, di altre cose, effettivamente possiamo realizzare noi una piccola pagina informativa all'interno del CREA, che sarà disponibile a brevissimo, impegno io personalmente, dove spieghiamo esattamente quello che faremo all'interno del progetto AgriDigit, per cui il risultato che andremo a consegnare e come funziona bene questo modello, dettagliando per quanto più possibile, insomma, tutte le metodologie e i risultati che andremo a produrre. Bene, poi tra l'altro, se le persone partecipano, credo che anche per voi sia molto importante, perché potete avere un riscontro pratico poi delle cose che voi avete studiato, avete fatto tutto il software, però poi dopo un'interazione col territorio credo sia importante. L'interazione veramente è fondamentale, perché solamente grazie a quello possiamo realizzare quello che è uno strumento utile, altrimenti parliamo solamente tra di noi e non realizziamo nulla di concreto. Che quindi belli è che veramente siete fondamentale. Lì al CREA. Bellissimi. Allora, Federico Garcia, invece vorrei chiedervi sul tipo di alberi che io posso scegliere di piantare. Lì è un accordo che si fa anche proprio con i contadini, le popolazioni indigene di cui ci dicevi prima? Sì, noi in realtà è un approccio che proviene dal basso, cioè ogni cooperativa di contadini ogni anno ci propone un piano forestale di alberi che vuole piantare, noi controlliamo, piantiamo alberi differenti, quindi per promuovere la biodiversità piantiamo esclusivamente specie locali, autoctone, e cerchiamo di creare dei sistemi agroforestali che quindi mixano anche agricoltura, alberi forestali, alberi da frutto. Questo per massimizzare l'impatto. Infatti sul nostro sito, come potete vedere, su tridom.net si può piantare un albero di cacao, un albero di mango, un baobab, un albero di caffè. E poi io lo posso vedere, vero? Esatto, la nostra metodologia però si basa adesso su io pilastri. So che là in regia mi stanno aspettando che io faccia la fatidica domanda, cioè non vedo sempre lo stesso albero, cioè, ce ne sono veramente, come fate a controllare poi che questi alberi vengano effettivamente piantati? Beh, abbiamo sviluppato una tecnologia che permette di georeferenziare e fotografare ogni singolo albero piantato. Per controllare basta andare sul nostro sito e abbiamo un registro degli alberi dove sono presenti tutti i 1.400.000 alberi che abbiamo piantato, ognuno col suo punto GPS e la sua fotina, e in realtà tanti utenti è capitato che durante i loro viaggi sono andati anche a visitarlo il loro albero, quindi infatti. Per provare questa cosa lo abbiamo raccontato sul nostro blog, è stato è ovviamente molto emozionante quando vai a vedere il tuo albero. Qualcuno gli dà anche il nome, immagino, ci saranno. Ogni albero è personalizzabile, è possibile dargli il nome, scriverci un messaggio virtuale e, come dicevi, regalarlo a una persona cara, quindi per la nascita di un bambino, come citavi prima, oppure per un compleanno, per Natale, San Valentino, diciamo ogni occasione buona per fare un regalo che anche magari in questo momento è possibile fare a distanza, si può regalare un albero via mail, copiando un link su WhatsApp oppure stampando una gift card, quindi un bigliettino da consegnare a mano. Bene, molto bene. Allora, sul patto dei costi di Tridom, su cui qualcuno scrive, ci ha ben specificato Federico, perché poi vengono ripartiti questi guadagni in modi diversi rispetto magari ad altri che fai una donazione, ma è un po' diverso. Ecco, il sistema è ben spiegato su Tridom, che è scritto T-R-E-D di Domodossola, O-M, così almeno credo di aver chiarito per tutti. L'ultima domanda per Alessandro Livernini, poi ci dobbiamo necessariamente salutare, mi spiace, ci sono domande veramente non riesco a tenere dietro. Comunque, è vero che il leccino ulivi piantato nel Salento non va bene perché necessita di molta acqua? Risponde anche a questo tipo di domande il software che avete elaborato? Allora, io personalmente no, perché non ho penso, non conosco bene la specie. E la questione però fondamentale, che vale essenzialmente proprio per questo software, è che lo stiamo sviluppando dopo nel corso degli anni, come dicevo prima, per cui ogni mese aggiungiamo nuova conoscenza, senza che essenzialmente si traduce in nuove specie da andare a conoscere, per cui attualmente sicuramente non può rispondere, ma forse a breve lo speriamo, insomma. Ok, va bene. Qualcuno invece per Federico dice che preferirebbe più foto e meno disegni sul sito di Tridom. Insomma, ce n'è per tutti i gusti. Io vi ringrazio, Alessandra Livernini del CREA, Federico Garcea, co-founder di Tridom. Abbiamo una piccola pausa, torniamo tra pochissimo. Fare. Sono un fantasma che vive in una città fantasma, i Rolling Stones, per introdurre il prossimo ospite e il prossimo tema del quale ci occupiamo, ovvero del si può fare lo stesso nei piccoli borghi di cui è disseminata l'Italia, che stanno vivendo questa seconda giovinezza a patto che la vengano portati tutti i servizi che sono necessari per viverci, perché ormai certe cose fanno parte della nostra vita e senza una banda larga sono pochi quelli che possono vivere, o senza un wifi, o senza gli autobus che arrivano e ti portano a scuola o ti portano al lavoro al mattino. Bene, parliamo di questo tema con la nostra ospite, che è Isabella Tedeschini, vice sindaco di Parrano. Buongiorno. Buongiorno a lei. Parrano, vicino a Orvieto, diamo una collocazione geografica così almeno ideale. Assolutamente sì, siamo vicinissimi a Orvieto. Quanto dista da Orvieto? Ma circa mezz'ora in macchina con la Costa del Sole si esce a Fabbro e poi in 10 minuti si arriva al centro storico di Parrano, quindi vicinissimo e collegato benissimo con le infrastrutture, nonché con la ferrata, quindi la stazione di Fabbro Sicule e Treno. Voi in teoria siete messi bene, quindi non siete distanti dall'autostrada, non siete distanti dalle ferrovie, avete un centro come Orvieto, però comunque vi siete dovuti porre il problema dello spopolamento e avete iniziato una serie di azioni per così essere anche attraenti, avete investito proprio del denaro in questo. Assolutamente, praticamente noi abbiamo iniziato facendo un progetto che appunto valorizzasse l'esistente, e questo progetto si chiama Parrano Biodiversa e fondamentalmente ruota sulla valorizzazione della nostra terra di qualità, l'acqua termale delle Tane del Diavolo, il Fosso del Bagno, un sito termale conosciuto fin dalla preistoria per le sue proprietà curative, e poi la nostra area, perché chiaramente essendo un centro totalmente poco antropizzato abbiamo un'area veramente di qualità e attestata da due studi, uno dell'Università di Perugia e il Dipartimento d'Agraria e l'ARPA Umbria, che hanno verificato che i nostri pollini sono molto meno aggressivi grazie al poco inquinamento, e poi la storia, perché senza la storia chiaramente non possiamo. Questa cosa che ha detto delle allergie credo che abbia fatto drizzare subito le orecchie a un sacco di persone. Già. Vedo anche Edoardo Lavezzari che ha detto: ma magari Parrano quasi quasi potrebbe essere la mia prossima destinazione, grazie magari allo smart working che è entrato nelle nostre vite, insomma si potrebbe lavorare anche da lì. Esatto, infatti noi in questo periodo abbiamo avuto tantissimo sviluppo di smart working grazie appunto alla banda ultra larga, come lei poco fa menzionava, e la predisposizione di uno spazio co-working. Questo è successo già prima della pandemia, perché come appunto dicevo abbiamo iniziato già nel 2017 con una serie di misure e di servizi per poter agevolare chiunque volesse cambiare vita, quindi venire a vivere in un piccolo borgo dove diciamo la qualità della vita, quindi il buon vivere nella natura, gli spazi aperti ti garantiscono quel senso di libertà, ma nel contempo ci siano poi tutti i servizi per poter essere connessi col mondo. Dunque, quindi io leggo, banda larga ce lo diceva già, sì. I trasporti verso Fabro, leggo in particolare, esatto. Che è dove c'è la stazione, esatto. Corse gratuite, sì, no, ho letto io, trasporto gratuito, sì, ho letto bene. Gratuite, perché praticamente noi abbiamo attivato anche un assessorato, il mio in particolare, che si occupa di seguire e monitorare tutti i bandi che possono essere utili per la pubblica amministrazione e la pubblica amministrazione in partenariato con i privati e il mondo del terzo settore, affinché appunto possiamo anche garantire delle misure shock, per esempio questa qua, per 3 anni trasporto gratuito il venerdì e lunedì connesso al mercato e alla stazione ferroviaria di Fabbro, con 3 corse al giorno per raggiungere ovviamente Roma e Firenze, che sono le città metropolitane più vicine. Il lunedì e il venerdì, quindi per chi, esatto, deve magari andare per lavoro nelle grandi città appunto di Roma, di Milano, comunque sei sulla direttrice, esatto, Roma-Milano voi, ecco, poi infatti uno scende dove succede. Vuole. Esatto. Poi c'è la questione degli affitti smart addirittura, sì, con canone, sì, calmierato massimo 250 euro, nonché contributo per restituzione IMU e TARI. Ma siete, esatto, un comune a cui i soldi escono dalle orecchie, come fate? In realtà assolutamente no, però il discorso è appunto questo, con un bilancio edificatissimo abbiamo fatto proprio tutto uno studio, quindi teniamo costantemente monitorato il tessuto socio-economico del comune, e quindi abbiamo poi avuto uno stretto contatto con imprese, privati, che chiaramente ci hanno indicato quali potessero essere le esigenze, e pertanto grazie a questo abbiamo vinto alcuni bandi di finanza agevolata e pertanto ci hanno permesso di ampliare le nostre risorse a bilancio, oppure come nel caso di IMU e TARI abbiamo fatto una scelta diciamo rischiosa, però comunque si è avuto un bel riscontro, perché chiaramente questi affitti a canone calmierato con poi la restituzione dei tributi locali hanno permesso di far incontrare domande e offerte anche chi magari è una coppia giovane che ha necessità di venire a vivere e abbattere le spese, quindi in un piccolo borgo chiaramente sa che c'è anche questa misura diciamo di vantaggio. Però voi cercate residenti, non persone, sì, che prendano la casa per turismo durante l'estate. Esatto, certo. Quindi la condizione per godere di questi vantaggi è spostarsi a vivere da voi. Beh, ovviamente dobbiamo comunque garantire che ci sia un minimo di continuità, che sia, non sia appunto un affitto spot, ma che sia proprio una scelta di vita, no? Quindi sostanzialmente. Bene. E abbiamo avuto un bel riscontro. Esatto, detto questo, quindi, che la condizione è stringente, perché non è prendere casa e poi andarci una settimana d'estate, certo, ma la condizione è, semmai al contrario, andarsene via una settimana d'estate in vacanza da qualche altra parte. Avete trovato quante persone che hanno deciso di cambiare la loro vita e di fare la loro vita da lì? Allora, attualmente in vigore appunto diciamo della misura agevolativa ci sono circa 30 persone che hanno fatto questa scelta, sostanzialmente appunto, oppure chi generalmente ha preso la residenza e poi chiaramente fa scuola, perché soprattutto per i contatti commerciali, ma abbiamo per esempio di recente avuto un gruppo di persone che hanno preso un podere completamente abbandonato, lo stanno ripulendo e hanno riattivato un frantoio che diciamo è una risorsa, perché non c'erano per esempio più frantoi, questo è il periodo d'olive, cioè dalle vostre parti non c'erano più frantoi? No, nel nostro comune noi avevamo prima un metodo particolare con un frantoio che era diciamo storico di circa 200 anni, però per esempio ecco non c'era più, perché non c'era più chi aveva interesse a mandarlo, e questi ragazzi piano pianino hanno rimesso in moto un meccanismo e quindi stanno lavorando su questo, sulla DOP dell'olio di coglio e pietani, e ecco, questo è uno dei nostri più grandi successi, perché finalmente sono giovani che tornano a fare un lavoro in campagna, che comunque ridanno vita a un podere di circa 10 ettari che era completamente abbandonato. Ma di pari passo, diciamo, con lo spopolamento di questo piccolo paese, che è un chicchino, perché io almeno ho visto le foto, complimenti, Parrano, insomma, un posto dove uno vorrebbe potrebbe tranquillamente apparecchiare per terra, direi, senza problemi. Andava di pari passo lo spopolamento delle campagne, oppure le campagne erano comunque coltivate ma non si viveva più nel paese? Allora, tendenzialmente vanno di pari passo, purtroppo, perché il nostro comune è costituito per metà da un castello con una tenuta di circa 1500 ettari, quindi capisce che dava lavoro a tantissime famiglie, circa 150, e poi per varie vicende societarie questa situazione si è bloccata, e quindi piano piano non solo chi viveva chiaramente il castello, quindi il centro storico con tutto l'entourage del borgo, ma anche chi poi lavorava nei campi, chiaramente poi piano piano ha fatto un'altra scelta di vita, quindi si è spostato verso le città con dei lavori diversi, e sono rimaste pochissime aziende agricole che qui ancora funzionano a conduzione completamente familiare, con numeri che non sono significativi da dire prendo 10 operai, chiaramente, per cui diciamo che anche c'è stato un impoverimento generale connesso sia, diciamo, a questo blocco, e poi, diciamo, proprio ad esigenze moderne della società, quindi anche soprattutto i giovani che studiano fuori, poi magari vanno fuori, tranne alcune eccezioni che decidono di restare, investire e essere appunto cocciuti, ma di restare nel proprio borgo. Io le chiedo un'ultima cosa, Isabella, sì, Tedeschini, che è questa. Noi l'abbiamo contattata tramite il mitico Pier Giorgio Olivetti, segretario di Città Slow. Sì. Che cosa vi aiuta a fare questa rete di Città Slow? Città Slow innanzitutto è un marchio di qualità, perché fondamentalmente per essere Città Slow bisogna rispondere a una serie di requisiti veramente, veramente importanti. Quindi quello che è garanzia di realtà, quindi quando uno arriva a Parrano, come tutte le città lo respira, che quello che è scritto nel decalogo delle città del buon vivere è poi una cosa effettiva, quindi fondamentalmente questo è innanzitutto un attrattore di persone, perché ormai è conosciuto in tutto il mondo, e poi perché chiaramente è un'occasione di fare rete, quindi sentire altre esperienze, prendere spunto anche da altre città nel mondo che hanno deciso di aderire a questa filosofia con delle misure innovative che si possono mutuare, oppure possiamo fare dei gemellaggi tra le nostre città slow. E quindi ecco, per noi è stata una delle prime scelte che abbiamo fatto, aderire a Città Slow, perché veramente è un network di gran pregio. Grazie Isabella Tedeschini, e ci saluti tutti i suoi concittadini, nuovi e vecchi. Vice sindaco di Parrano, abbiamo parlato di Umbria, siamo stati vicino a Orvieto, ora abbiamo la viabilità e torniamo tra pochissimo. Si può fare. Può fare. E Berta filava e filava la lana e l'amianto nel vestito del santo che andava sul rogo. Ed eccoci qua per l'ultima parte di questa puntata, Si può fare lo stesso. Abbiamo detto di cose che si possono fare a distanza, abbiamo parlato di alberi comprati su internet e piantati magari dall'altra parte del mondo. Adesso parliamo di qualcosa che si fa grazie ai social network, per una volta è una cosa bella che si fa grazie ai social network, e si fa a distanza, si fa in Russia su Instagram in particolare. È una rete, una piattaforma che è stata ideata da una giovane mamma, si chiama Yulia Alieva, lei ha organizzato con un'amica di nome Xenia una piattaforma di vendita di maglieria, in sostanza, prodotta da pensionati che in questo modo possono vendere i loro prodotti su Instagram e arrotondare la pensione. Alla fine ne beneficiano tutti, dice Yulia Alieva. Io all'inizio pensavo di fare una cosa, poi me ne è venuta fuori un'altra, però insomma questo è il racconto che ci ha fatto, abbiamo abbiamo dovuto registrarla e tradurvela grazie a Olga Rosenkova. Il racconto che ci ha fatto della sua piattaforma Instagram che si chiama Russian Grannies. Добрый день. Buongiorno, очень приятно, что меня пригласили. Buongiorno, sono molto contenta di essere stata invitata alla vostra trasmissione e con piacere condividerò la mia esperienza con voi. Il nostro progetto Russian Grannies, quindi le nonne russe, si può tradurre in questo modo, sostiene dei pensionati che vengono da tutta la Russia. Oggi abbiamo già 140 partecipanti che vengono da 30 regioni. Abbiamo anche 4 ragazze che coprono questo progetto e abbiamo anche varie destinazioni, vari ambiti coinvolti in questo progetto, quindi sia la maglia classica, sia quelli che lavorano con le macchine, quindi lavorano, usano il telaio per produrre vari articoli di artigianato. Il nostro progetto è stato lanciato 2 anni fa. In quel momento vivevo a San Pietroburgo e proprio da lì che è partito il nostro progetto, perché è lì che ho trovato le nostre prime signore artigiane con cui collaboriamo ancora oggi. Queste signore artigiane, diciamo, erano sue conoscenti che già lavoravano la maglia per venderla, oppure una cosa che è nata, no, parlando con queste signore? Io, come dicevo, non conoscevo queste donne, queste signore artigiane di cui ho parlato prima. Tutte le partecipanti per me erano tutte le persone sconosciute, quindi le ho conosciute grazie al progetto. L'unica persona che conoscevo era la mia nonna. Era anche una bella sfida all'inizio. Perché? Perché molte persone erano sospettose e il sospetto è un po' la prima cosa che viene quando si deve coinvolgere le persone in un progetto nuovo, non conosciuto. E qui sicuramente è venuto un aiuto potenziale dei social network che abbiamo utilizzato per promuovere, per sviluppare questo progetto. E le persone di questa età in Russia maneggiano, diciamo, i social, oppure magari sono stati attraverso i nipoti? Qual è stata la via per raggiungerli? All'inizio ho soltanto pubblicato un annuncio in un gruppo di pensionati russi che esiste sui social, e quello che veramente mi ha sorpreso tanto in quel momento è che quando ho pubblicato questo annuncio in questo gruppo ho visto che ci sono tante persone, anche ultra ottantenni, che attivamente utilizzano i social. E in quel momento, quando ho pubblicato questo annuncio, c'erano poco più di 5 persone che hanno reagito positivamente al mio annuncio, che hanno risposto, ma all'incontro è venuta soltanto una persona. Quindi al primo incontro è venuta soltanto questa signora che si chiama Yelena Leonidovna, che ha subito creduto in me, ha creduto nel mio progetto, nel potenziale di questo progetto. Dopodiché, man mano, anche altre persone cominciavano ad essere sempre più interessate al progetto, e poi abbiamo avuto anche l'aiuto di nipoti, di parenti, ma anche di vicini di casa che sembravano molto interessati, e man mano coinvolgevano altre persone, parlavano del mio progetto ad altre persone. E questo per quel che riguarda la rete che è stata costruita su Instagram. Ma come funzionano gli ordini? Abbiamo chiesto a Giulia Aglieva. Come dicevo prima, il canale Instagram ha un ruolo chiave nel nostro progetto. Come succede? Loro ci mandano la loro storia, anche i loro articoli di artigianato che loro stanno già producendo, che possono tradurre o che producono già, e noi creiamo una specie di profilo del partecipante. Quindi questo profilo che noi apriamo sul nostro canale, che permette ai potenziali committenti di prendere conoscere i nostri partecipanti, conoscere il loro prodotto, quindi conoscere i loro articoli di artigianato, o anche eventualmente chiedere, proporre le loro idee che eventualmente possono essere realizzati da questi artigiani. Quindi a volte avevamo anche delle situazioni in cui magari il committente chiedeva se sarebbe stato possibile produrre un articolo, poi noi contattavamo le nostre artigiane, i nostri artigiani, e loro dicevano se era possibile o no. E così a volte nascevano proprio degli articoli di artigianato nuovi che prima non erano disponibili. E poi c'è la questione senz'altro del prezzo e del guadagno dell'artigiano, come vengono ripartiti, diciamo, i guadagni, qualcosa resterà immagino anche a loro, che percentuali sono? Inizialmente questo progetto era nato come un progetto di imprenditoria sociale, di carattere sociale. Cosa significa? Cioè, la mia idea originale era quella di creare dei modelli di articoli di artigianato, creando il mio design, quindi il design di cui mi sarei occupata io, e avrei lavorato i modelli, avrei lavorato il design degli articoli che poi avrei messo in vendita, e poi avrei pagato un prezzo fisso agli artigiani e alle artigiane che avrei fissato io. E l'idea originale era quello di pagare 50-50, quindi 50% mio, 50% di ricavato per gli artigiani. Questo era un progetto iniziale, poi nel frattempo sono diventata mamma, e quindi l'idea originale era molto impegnativa dal punto di vista di tempo qua che avrei dovuto dedicare allo sviluppo del design, allo sviluppo dei modelli, al packaging, eventualmente anche alla confezione, a tutte le condizioni di consegne che avrei dovuto sviluppare meglio per portare avanti questo tipo di idea originale che avevo. Adesso posso chiamare questo progetto, che gradualmente si è trasformato in un progetto di beneficenza. Spiegherò meglio cosa intendo. Adesso abbiamo molti più articoli d'autore, cioè quindi le nostre artigiane sono molto più libere di creare quello che hanno in mente, quindi non hanno un design particolare da seguire, quindi loro creano e fissano un loro prezzo che definiscono loro stessi senza il mio coinvolgimento. Quindi quando il committente compra un prodotto, il nostro artigiano riceve il 100% del guadagno, e poi dopo loro, a loro discrezione, di solito loro ci mandano il 10% per il nostro servizio, per il nostro... E nel prezzo bisogna considerare anche la spedizione, adesso questa è un'altra cosa, però immagino... La spedizione si paga a parte. La ringraziamo molto, le auguriamo quindi una lunghissima fortuna, visto che ha tanti progetti da realizzare. Anch'io mi sento molto onorata e mi ha fatto molto piacere avere questo tipo di esperienza e parlare con una rappresentante del paese che mi sta particolarmente a cuore. Dalla Russia con amore. Grazie. E va bene, finiamo qua questa puntata di Si può fare oggi, puntata alla quale ha lavorato come sempre Edoardo Lavezzari in redazione, Michele Michelazzo come autore, Peter Bescapè oggi in regia. Ringrazio Olga Rosenkova che ci ha tradotto questa intervista che abbiamo realizzato. Russian Grannies su Instagram, e non fate i maliziosi, si chiamano così le nonnine russe. Ci ritroviamo domani alle 8:30, una nuova puntata di Si può fare, e domani parliamo di bellezza. Si può farsi belli, ci domandiamo?